Pronto, pronto, qui Ruggero Orlando. Sono le 23. Qui in America è ancora lunedì 13, da voi è già martedì 14. L'astronauta Jack Swigert comunica dall'Apollo 13. C'è un problema. Se ne va l'energia dell'Apollo. Jim Lovell dice che c'è stata un'esplosione. Così Ruggero Orlando telefonava da Houston all'europeo la mattina del 14 aprile 1970. Tre uomini stavano naufragando vicino alla Luna. Ecco le loro voci, qualche minuto prima del naufragio. Stanno parlando di una stella, la cometa Bennett. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks. In addition, I have a shaft and trunnion for a look at the comet Bennett if you need it. Poi una pausa. Una lunga pausa durante la quale nessuno sulla Terra era in ansia. La terza missione Apollo verso la Luna si era svolta fino a questo momento nell'indifferenza. Un giornale italiano era uscito proprio quel martedì 14 aprile con un grande titolo. Troppo perfetto. La gente si annoia. È la voce di Lovell a lanciare l'allarme. Ok, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Abbiamo un problema. Ripetete. Abbiamo un problema. C'è stato uno scoppio. L'allarme lampeggia. 13 Houston, we'd like you to verify a couple readings for us. We'd like the nitrogen pressure on fuel cell 1. We need the oxygen pressure on fuel cell 2. O2 quantity number 2 is 0. Le pile sono a zero. Stiamo perdendo ossigeno nello spazio. Sono trascorsi 10 minuti esatti dall'esplosione a bordo. L'Apollo 13 è un relitto senza vita. Gli orologi del centro di Houston segnano 55 ore e 54 minuti dall'inizio della missione. Negli Stati Uniti è cominciata la notte. Molti americani dormono. Sull'Apollo 13, per la prima volta nella storia dei voli spaziali, il comandante toglie i sigilli al piano d'emergenza. Ok, 13, this is Houston. We'd like you to go to your GNC checklist. The pink pages 1-5. Do power down until we get a delta of 10 amps, over. And 13, you might also check for those pages in your launch checklist. They're emergency pages, pink pages 1-5. And, aprite le pagine like rosa d'emergenza. Fatto. Okay, 13, Houston, turn okay, battery A off. Non c'è più corrente. Non va. Non va. Dead. It's dead. È morto. È morto. Pronto. Pronto qui, Orlando. Non si va più sulla Luna con l'Apollo 13. C'è chi parla di un meteorite che può aver colpito la bombola dell'ossigeno. C'è chi dice che è assai improbabile, invece. Prima dell'esplosione si è notato un rapido aumento di pressione. Allora dicono non è un meteorite. I meteoriti non sono mostri spaziali che premono e strangolano una bombola. Lovell ha ricevuto la direttiva di servirsi del motore del veicolo di allunaggio per alzare il pericinzio dell'astronave in viaggio verso la Luna. Il pericinzio, cioè il punto di minima distanza dalla Luna, cinzia nella mitologia greca, e l'astronave rientri da sé nella traiettoria di ritorno alla Terra. È il veicolo lunare che fa da scialuppa di salvataggio. È stato il primo si salvi chi può lanciato nello spazio. La Luna, gigantesca davanti agli oblò dell'astronave, verrà aggirata come un capo battuto dalle tempeste e inattraccabile.